Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Buongiorno a tutti e benvenuti alla Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi va a scoprire una situazione molto particolare ma altrettanto interessante, ovvero sia la Fantinoteca d'Italia nonché Fumettoteca Alessandro Caligari Calle, una realtà che insiste a Forlì nella sua zona periferica, che in due stanze raccoglie un gran materiale. Per chi ancora non sapesse cos'è una fanzina, Zingarelli del 94 la definisce una rivista per lo più realizzata in economia e a bassa tiratura, destinata agli appassionati di un settore musica rock, fantascienza, cartoni animati, eccetera. E già da questa breve definizione si cominciano a delineare le caratteristiche di questo prodotto cartaceo casalingo. Tutto questo mondo underground ci viene introdotto da Gianluca Umiliacchi, grande animatore della Fantinoteca, della Fumettoteca, che accogliendo Morena l'ha introdotto a questi piccoli tesori raccolti nel centro forlivese. E questa trasmissione è un po' una testimonianza reportage di questo incontro ravvicinato del terzo tipo. 1, 2, 3, 4. Allora Gianluca, mi stai facendo vedere questi locali della Fumettoteca, ma che però in origine, anzi prima di tutto, sono Fanzinoteca, Fanzinoteca d'Italia, che significa che voi qui avete raccolto tutta una serie di fanzine, che sono queste pubblicazioni, no? Di appassionati. Volanti, di appassionati, quanti ne avete? Quanto materiale avete? Diventa un po' difficile poterlo quantificare in maniera giusta, però dovremmo essere sui oltre 8.000 pezzi. Tutta Italia, non solo quindi zona... Abbiamo anche l'estero, più di varie centinaia di pezzi che vengono da tutto il mondo. Quindi Italia ci siete voi e qualcun altro, qualche altra realtà del genere? Proprio Fanzinoteca intese come tale, cioè Biblioteca delle Fanzine, nessuna. A Milano hanno aperto qualche anno fa uno spazio all'interno di una biblioteca che chiamano Fanzinoteca, ma in realtà raccolgono autoproduzioni, sono tutto un altro mondo. Quindi qui se uno volesse davvero venire a fare una ricerca, questo è il luogo giusto. Voi fate anche, avete anche, diciamo, dato i vostri spazi per delle tesi universitarie. No, le seguiamo proprio, siamo supporti con assistenza esterna. L'ultima è stata discussa 3 settimane fa a Venezia ed è la nona. Quindi il fenomeno delle fanzine io lo legavo più agli anni 80-90, invece continua. Continua, sì, in realtà in Italia arriva negli anni 50, quindi è un bel po' di tempo fa. Poi si è sviluppata, ha seguito i suoi percorsi, ha seguito i tempi, le mode, ha seguito la società e ancora esiste. Esistono ovviamente molte in rete, ma come file, quindi non siti piuttosto che portali o Facebook, ma proprio PDF che sono scaricabili, uno se li può leggere o stampare, quelle sono fanzine. Ed esistono anche in supporto cartaceo. Ma a voi quella più vecchia a quanto risale? Me la fai vedere? Certamente. Dai, andiamo a vedere. Questa è il Centro Nazionale Studi Fanzine e qui abbiamo i pezzi che vi stavo citando prima, ce ne sono una marea, ce ne sono veramente tanti, la più vecchia dovrebbe essere i primi anni 60. Voi le tenete tutte naturalmente nei contenitori di plastica, giustamente? Non per altro, ma solo perché così per almeno... Mega, micro mega. Sì, era una fanzina. Allora, in pratica... C'era anche una rivista, micro mega. Dopo l'hanno fatta. Ah, ma quasi tutte le fanzine hanno avuto negli anni passati. Guarda pure. Queste devi avere le viste. Questo è proprio il ciclo stilato con il ciclo stile. Quindi sì, cioè, sì. La matrice, il inchio, così si metteva... Sì, il ciclo l'ha usato. Sì, sì, l'ho usato. Poi, tra l'altro, questo si faceva a mano, sì, con quella pennina che si scalfiva, la carta velina. bellissime sono. Queste poi non sono neanche pochi fogli, questi sono anche abbastanza. In questo caso, ma in altri casi ce ne sono di meno, e tra l'altro qui vedi che loro erano eccezionali perché facevano anche fronte destra, ce ne abbiamo alcuni che hanno solo un fronte, capito? Queste per esempio sono... Qui argomento? Fantascienza, che poi le prime, ce ne sono molte di fantascienza. Ma in realtà sì, se ne rintracciano di più perché sono l'ambito che hanno non solo operato di più, ma anche quello che hanno raccolto di più, cioè se le sono tenute più a conto. Questa è bellissima, questa è la copertina e questo è il titolo. Nuovi orizzonti. Ah, la copertina sì, bianca. Bianca è un parolone oggi. Sì, è prima, diciamo. Nuovi orizzonti. Però era il discorso finito, abbiamo già detto tutto, finito tutto, anche l'arte ha fatto questo tipo di passaggio, a questo punto tela bianca, questo è uguale. No? Sì. Quindi prima pagina bianca. Tutto macchina per scrivere, come ecco, 66, ma in realtà la più vecchia dovrebbe essere sul 63, non ricordo quale. Ecco, come vedi questa è a fronte. Sì. Solo sì, certo. Vedi. Sì, sono perché effettivamente c'erano dei ciclostili e delle carte che potevano fare solo fronte, poi più avanti sono diventati fronte retro, poi sono diventate le fotocopie, poi tutto un mondo che è andato avanti così. Diffusione ridotta, quindi per pochi. Sì, e difatti il termine appassionati vuol dire proprio uno sfegattato, e ridotta soprattutto anche per i costi, soprattutto anche per la produzione, la famosa stampa a misura d'uomo, come definisco io. Poi ovviamente con la fotocopia incomincia un po' a amplificarsi il discorso, e quindi anche poi passano i tempi, c'è la possibilità di contattarsi meglio. Quando uno faceva le fanzine ancora negli anni 90, nei primi anni 90, dovevi scrivere la tua lettera, dovevi spedire, dovevi aspettare che se ti dicevano sì ci interessa, dovevi mandare il materiale, dovevi aspettare un altro, e questi erano mesi. Oggi è un'ora con un email, anche meno di un'ora fai tutto. Tu eri un fanzinaro. Sì, io sono nato come fanzinaro nella metà degli anni Ottanta. Qui spiega come è venuto il contesto della fanzinoteca, ma ovviamente parte da me. Anni Ottanta, a metà degli anni Ottanta faccio delle fanzine. Gianluca Migliacchi inizia la realizzazione. Poi, ovviamente, tutto Migliacchi, perché purtroppo non si può fare diversamente. Nel 95 il prototipo del primo catalogo, che è l'unico che poi è stato realizzato, e nel 98 viene stampato da Stampa Alternativa, Marcello Barghini, e nel 99 c'è l'archivio, la nascita dell'archivio, quindi tutto il materiale che già c'era e poi si è amplificato, proprio diventato notevole proprio per questo progetto qui. Nel 99 costruiamo l'archivio, definisco che può essere anche visitato da altre persone. Nel 2000 è la prima tesi di laurea che seguo, e te l'ho detto sono 9. Nel 2005 parte l'associazione, perché c'è dietro un'associazione, e lì anche quella è stata una gestione un po' difficile, perché molti amici pensionari continuavano a dire e io scherziamo, questo è un ambito non ufficiale, dobbiamo ufficializzarlo, e io sono stato molto restio in effetti, forse ho sbagliato. Poi alla fine nel 2008 vengo nominato, perché nel 2005 non subito, nel 2008 vengo nominato presidente dell'associazione, nel 2009 rappresento l'Italia in Francia, è stato il primo incontro internazionale delle fanzinatiche mondiali. In Italia non c'è nessun altro, mi hanno contattato me e sono andato su. È stato, guarda, una cosa che... straordinaria. Sì, al di là dell'immaginabile. In Francia venivano, ce ne erano 4 realtà dall'America, 5 dall'Inghilterra, in Francia c'erano 4-5 di quelle, altri 5 dalla Spagna, ci doveva essere uno dalla Germania che poi dopo non è arrivato, uno dal Portogallo e io che rappresentavo l'Italia. Abbiamo fatto 2 incontri a porte chiuse e uno con il pubblico. È stato veramente eccezionale, io non ci credevo che la... Tra l'altro basta dirti che era il 2009, la fanzinatica più vecchia che c'è in Europa è proprio quella a Poitiers. Ed è... Che anno è quella? Quest'anno, che il 2009 faceva 20 anni, quest'anno ne fa 30. Sì. E quando sono andato a parlare con loro, il presidente dell'associazione, perché dietro c'era un'associazione ma poi c'era anche l'amministrazione, spiegava appunto che è stata l'amministrazione a contattarlo allora, quindi 30 anni fa, a fargli la proposta che gli davano gli spazi e in più i contributi. Allora, quando io chiesto nel 2009, quanto vi dà di contributi? 100.000 euro all'anno. Noi siamo riusciti ad avere 265 euro in 7 anni, le matite ce le siamo pagate. E poi nel 2010 tutto questo percorso arriva alla fanzinoteca. Però poi non vi siete fermati, no. Perché adesso facciamo un salto e andiamo in questa cosa nuova. Avete inaugurato febbraio 2019, ovvero pochi mesi fa, che è una fumettoteca. La fumettoteca. Che tra l'altro è anche l'unica regionale, e qui c'è anche una timeline. La fumettoteca. Che è sempre relativa alle canzoni. Sì. Cos'è accaduto? Avete deciso tu, l'associazione, che anche i fumetti... No, allora, che collegamento hanno con le, cioè allora, collegamento intanto, o con le fanzine? Intanto abbiamo avuto dei grossi problemi all'inizio nel 2010 perché tutti scrivevano nei giornali la fumettoteca e noi dovevamo sempre dire no, fanzinoteca, e cercavamo di spiegare cos'era. E lì è stata una bella battaglia e soprattutto abbiamo cercato veramente di stringere un po' le maglie sul fumetto. E dico questo perché in realtà io sono un ex fanzinaro appassionato di fumetto, per cui io collezionavo, avevo 7.000 pezzi di fumetti negli anni passati e mi piaceva e mi piace tuttora il fumetto. Poi, ma anche tu sei uno di Tex? Di collezione, no, lo leggo, lo leggo, mi piace, ma non mi... No, io più che altro guardo a 360 gradi, mi piace il mondo del fumetto in generale, escluso l'ultimo, negli ultimi decenni veramente non mi dice più niente, molto fumetto che è solo pubblicità. Ed è venuto fuori il discorso che, come ho detto prima, 265 euro in 7 anni, 7-8 anni di panzinoteca, non sono molti, e ci siamo però accorti che l'amministrazione dava di più se facevamo progetti sul fumetto. Per cui, essendo un grosso appassionato, un grande appassionato, tantissimi conoscenti nel mondo del fumetto, anche qui a Forlì e anche fuori Forlì, per esempio Bologna è un grandissimo autore, Vittorio Giardino, e c'è stato modo comunque di cominciare a fare degli eventi e delle iniziative legate al fumetto e un po' di contributi, ma copertura spese che tra l'altro si danno l'80% e il 20% ce lo dobbiamo mettere anche noi, per cui però almeno riuscivamo a muoverci e a realizzare qualcosa di più. E per cui alla fine, quando è venuto che Alessandro Callegatti, Calle per gli amici, morto nel 2002, la mamma ha tenuto tutto com'era fino a 2 anni fa, poi è stata ricoverata in una casa di cura, per cui hanno smontato tutta la casa e tutta la sua... Era un collezionista di fumetti? Sì, o anche... tutta la sua collezione si è trovata libera e gli amici hanno pensato opportuno di presentarcela a noi come possibilità di averla. E quindi abbiamo detto sì, vabbè, prendiamo la collezione. Una volta avuto tutti questi fumetti ne abbiamo discusso e poi ho detto, visto come sta andando il mondo amministrativo, visto che abbiamo anche questa possibilità, partiamo col progetto. Per cui abbiamo fatto i documenti, abbiamo chiesto l'autorizzazione alla madre, tutto il resto, abbiamo fatto l'inaugurazione con 150 persone, è una cosa... Di solito quando si fa un incontro con le fanzine riusciamo a avere quei 4-5 presenze. Qui avete, vedo in questa sala che avete già veramente una quantità di fumetti. Ah sì, adesso dovremmo essere su 8.000 pezzi. Questo vuol dire che le persone cominciano a portarvele, insomma. Sì, le donazioni ci sono anche da tutta Italia, perché per esempio abbiamo già avuto 100 pezzi dalla Storina, che è la casa editrice di Diabolik, che l'abbiamo contattato per un altro motivo, però è venuto fuori il discorso della fumettoteca e hanno subito preparato 3 scatole di fumetti da darci. E inoltre, ovviamente, il progetto di base sì cartaceo, ma anche ovviamente digitale, per cui è nato il discorso del contatto con il pioniere, che comunque conoscevo, avevo visto anche il sito e tutto il resto, avevo scaricato già anche così saltuariamente. Tra l'altro abbiamo, però non so dove sia finita, una fanzine dedicata a Diabolik, che pubblicò l'intera storia, non vorrei sbagliare, ma l'intera storia del pioniere che prendeva un po' in giro Diabolik. La mia adolescenza, moderatamente inquieta, è trascorso in un blocco di caseggiati dell'Istituto Autonomo Case Popolari, un luogo protettivo dove i miei amichetti conobbero le droghe pesanti senza passare dal via. Quel gruppo era la prova, solo allora vivente, che quelle leggere non sempre hanno la colpa di tutto. Era un quartiere caratterizzato da una solidarietà sempre meno intensa, anno dopo anno, e i cambiamenti della popolazione furono rapidi, ma il nostro campetto era sempre lo stesso. Al campetto i tossici giocavano a pallone con noi ragazzini senza alcun timore di venire cacciati. L'ordine del segretario della sezione del Partito Comunista era: potete stare qui, ma non spacciate i nostri figli e non vi fate davanti a loro. Non andò proprio così, ma almeno ci avevo provato. Quel campetto attirava gente strana, era una terra di tutti e quindi di nessuno, ma molto attrezzata. Panchine, verde, il centro sociale degli anziani sempre aperto. Lo spettacolo della tombola pomeridiana, con gli strafattoni che duellavano coi fagioli insieme alle pensionate, era stupefacente, molto più della facile battuta, molto più divertente del bingo di adesso. La loro presenza e le loro debolezze attiravano alcune ragazze dall'estrema periferia del nostro impero. Una era, addirittura, di Roncocesi, che per noi pionieri era come dire Vladivostok. Dunque abbiamo tratteggiato la Fanzinoteca d'Italia nella guida di Gianluca Migliacchi, che ha accompagnato Morena appunto tra una fanzine e quell'altra. Però all'interno di questi locali è nata anche la Fumettoteca Alessandro Callegate Calle, realtà prodotta nell'avventura dello stesso Migliacchi, grandissimo appassionato e colonna portante di questa realtà. Scopriremo anche che c'è sempre qualcuno più a sud di te, ovvero sia i fumettari che si considerano la Cenerentola, scalcagnati, poveri, in canna, in realtà agli occhi dei fanzinari sono un Moloch, una potenza, e quindi queste realtà povere si danno la mano e costruiscono realtà come quella forlivese. Torniamo alla collezione, quella che vi ha donato la famiglia Callegati, cioè che fumetti c'erano? Ecco, essendo un appassionato, un vero appassionato, lui aveva, come tutti diciamo tipici dei appassionati che sono, perché poi sono anche dei periodi, per cui era così come lo ero anch'io, e aveva le stesse testate che a suo tempo avevo io con i miei 7.000 pezzi, per cui delle collezioni intere di riviste d'autore, una volta si chiamavano così, era un errore di fondo, lo stesso che fanno oggi con il discorso del graphic novel, però venivano definiti in questa maniera, soprattutto poi perché dentro c'erano storie puntate. Parli tipo di, che ne so, anche Linus? Linus non è mai stata ritenuta veramente una rivista d'autore. Ecco, per esempio, la citazione di Frigidaire, anche quella non era proprio tale, perché comunque era più un contenitore tra virgolette alternativo, sì. E quelli che erano su Frigidaire, quando passavano in altre riviste d'autore, comunque erano ritenuti come testi d'autore, come Pazienza, che tra virgolette nasce come fanzinaro, lui, come Stefano Tamburini, il suo Rexeros, che è tra tra virgolette anche lui nasce come Fanzinaro, e la maggior parte dei grandi disegnatori di una certa età sono nati come Fanzinari, si sono sviluppati e hanno potuto avere la possibilità di proporsi proprio grazie al mondo delle fanzine. Quindi collezioni intere di Orient Express, che è una rivista eccezionale sotto tutti gli aspetti, Comic Art, L'Eternauta, Corto Maltese è la rivista, Totem, Pilot, tutte pubblicazioni che dalla fine degli anni 70 fino alla quasi la fine degli anni 80, che è stato il momento che poi sono scomparsi, venivano pubblicate. Quindi delle riviste eccezionali, tra l'altro, dove hanno dato la possibilità di formarsi tantissimi grandi autori. Sul Grifo vennero pubblicate tantissime storie di Manara, era già comunque famoso. Il Grifo ci deve essere, sì, anche Pazienza. In linea di massima, gli autori base erano quasi sempre quelli. Tu aprivi queste riviste e trovavi Magnus, Manara, Giardino. In pratica questi erano dei mostri sacri che da ogni rivista all'altra ci guardavi e li trovavi, se non tutti insieme, li trovavi comunque in molte riviste, sì. Quindi adesso apriamo, diciamo, avete aperto questa novità che è la fumettoteca, e poi mi dicevi che avete fatto anche una ricerca per, in questo caso, sul Pioniere, e avete chiesto la possibilità di mettere a disposizione tutto quello che è online anche per i vostri contatti, le persone che verranno qui. Sì, per il pubblico. Sì, abbiamo considerato, era alla base, c'era proprio una ricerca di contatti sia alle case editrici, come nel caso, ti ripeto, prima la Storina, però non ci siamo ancora mossi più di tanto, sia anche alle realtà del digitale. Questo proprio per costruire un archivio collegato a quello cartaceo, ma in modo che potesse essere consultato facilmente dai nostri clienti e dal nostro pubblico. Avete trovato altre, diciamo, collezioni online di quel genere? Ci sono. Non di fumetti vecchi scansionati, ce ne sono vari, però ci sono per esempio delle testate che sono nate già in digitale, PDF, e che continuano a vivere negli anni, come per esempio SBAM, è una pubblicazione bimestrale di informazione, di critica, se venivano definiti di critica quando c'erano moltissimi articoli all'interno, e poi dà anche spazio alle nuove leve, ma inteso come emergenti, nel senso che non sono professionisti, si dilettano a fare fumetto, per cui. E poi, a parte questa, che è tra le più, diciamo, consolidate, ci sono in rete molte giacenze, nel senso che una volta costruita, messa lì, non viene cancellata, però la puoi rintracciare e scaricare. Questo poi era un progetto che realizzavamo già anche con le fanzine. In molti casi, quando ci chiamavano, ci contattavano per mandarci le fanzine, noi eravamo sempre dietro a cercare di stimolarli, di fare in modo che ci inviassero anche il PDF, per cui nel nostro sito della Fanzinoteca c'è anche la sezione per scaricare i PDF di molte testate funzionali. Sì, che questo rende più semplice naturalmente il lavoro dei ricercatori o dei ragazzi che vengono a fare studi, tesi, o chiunque voglia comunque entrare in rapporto con questo mondo. Sì, è un po' limitato perché sono gli anni recenti, quindi dopo, se veramente uno vuole, per esempio l'ultima tesi è venuta due volte qua da Venezia a consultare il materiale, a parlarci direttamente, ma poi comunque tramite email per la distribuzione dei documenti e tramite Skype per i contatti diretti per discussioni, le tesi le portiamo avanti senza problemi, anzi ce ne sono state due molto vicine qui in zona, una a 30 km e l'altra a solo 15, sono venute queste qui, sono venute una decina di volte, sono di più. That's all. i lettori dei fumetti, che giovani, hanno cambiato comunque approccio. Ovvero io vedo, ma anche tu, che ci sono molti di questi cartonati anche costosi, ma proprio il giovane ragazzo con il fumetto settimanalmente che lo compra, lo legge, eccetera, forse non c'è più, nel senso sono pochi i ragazzi giovani che leggono fumetti. Tu che dici? Intanto un dato di fatto, almeno qui da noi, nel nostro piccolo paese, è che in questo quartiere negli ultimi 3 anni hanno chiuso 4 edicole, e questo già vuol dire molto, e sappiamo che si sono allargati i discorsi delle librerie e come fumetterie e come contenuti di fumetti cartonati, come citavi prima, e quindi l'edicola ne ha subito. Poi dopo c'è il discorso dei quotidiani nei supermercati, però 4 edicole in 3 anni non sono una sciocchezza, perché poi alla fine il Topolino, il Tex, quelle in edicola ci saresti dovuto andare. Forse il Topolino e Tex ancora esistono, però i Tex sappiamo che ha un pubblico, diciamo, abbastanza più che adulto, insomma, ultra quarantenne, se non ultra cinquantenne, però mi pare che i ragazzi siano orientati ad altre forme, ovviamente, di, ma adesso, dire, di linguaggio. Sarà un futuro, secondo te, il fumetto? Allora, le fanzine sono calate come produzione non perché non le si voglia più fare. I giovani che vogliono comunicare col fumetto esistono ancora, non vogliono più fare il discorso della fanzine, prima di tutto perché in Italia c'è una ignoranza sconfinata sul termine, sull'uso e anche sul concetto. Questa è già una premessa. Poi, perché effettivamente è vero, una volta non esisteva, ma oggi sì. Oggi il giovane è pieno di sé. Mi ricordo un'intervista su una rivista dove un grandissimo fumettista, gli chiedevano alcuni pareri sulle fanzine e lui affermava senza alcun problema che erano autoreferenziali. Le fanzine no, le autoproduzioni sì. Ed è questo il discorso. Dalla metà degli anni 90 in poi aumenta la produzione di autoproduzioni. Le autoproduzioni sono tutto un mondo diverso delle fanzine, anche se in molti casi si realizzano nella stessa maniera, cambia lo scopo e il fine. Nelle autoproduzioni cosa fanno i giovani? I giovani già si caricano proprio a manetta, io so disegnare, peggio che peggio, in molti casi non so disegnare, però dice io ho inventato un nuovo stile. Il bello è che molti di questi giovani che si vogliono inserire nel mondo del fumetto non ne sanno nulla di fumetto, ma proprio nulla. Se tu gli citi un certo disegnatorino piccolo come Ugo Pratt, non sanno chi è. Diciamo di nuovo, diciamo, quindi io dico disegnatori e autori, illustratori e autori che lavorano oggi, che tu ritieni validi. L'altra settimana ero a una classe di scuola media inferiore e mi avevano chiamato per fare una lezione di 2 ore di fumetto. Dopo aver parlato di tanto, spiegato tante cose, c'è stata anche questa domanda e questo ragazzo alza la mano e dice: ma c'è del fumetto che non le piace? No, guarda, a me mi piace tutto, ho fatto una cappellona. Poi io subito, no scusa, mi sono sbagliato, effettivamente i fumetti da 10 anni a questa parte non me ne piace nessuno. Non leggo molti cartonati, perché in realtà li ho letti. Da noi i cartonati cos'erano? Erano le raccolte delle storie già pubblicate. Sì. Quindi t'ho fatto tutte le mie belle puntate sulle riviste e poi ti faccio il cartonato che anche brochure, non c'è bisogno che sia cartonato, e poi te lo ridò tutto insieme. Oggi non esiste più la rivista, per cui non puoi più fare la puntata, perché cos'è che ti permetteva questo? Di dare una valutazione. Tu leggevi nella tua rivista, erano varie puntate, e dicevi, beh, questa storia mi piace, quando la raccolgono la prendo. No, questa storia è veramente un po' più scadente, non mi interessa. Quindi oggi se devi prendere, ti tocca prendere comunque tutto quello che c'è, se vuoi dare un'occhiata, perché sì, lo puoi sfogliare, ma non è che si comprende più di tanto. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balun.